Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Meno occupati in dicembre, ma il saldo in un anno è positivo di 100.000 unità e scende la disoccupazione giovanile. Ecco i dati Istat sul lavoro. In poche ore, 3 casi di violenza sulle donne in provincia di Catania. Un uomo già condannato per omicidio uccide l'ex compagna. Nel Bresciano il marito uccide la moglie e poi si schianta sulla A4. Primarie americane. In Iowa si va al conteggio voto per voto dopo il sostanziale pareggio tra Clinton e Sanders. Tra i repubblicani vince Cruz e sorprende Rubio. Renzi torna sullo scontro con l'Europa. Serve un piano di lungo periodo anche sull'immigrazione. Basta alle polemicucce e alle lezioncine. A Sanremo ci saranno anche Nicole Kidman e Roberto Bolle. Incertezza sulla partecipazione di Garco dopo l'esplosione nella villetta di ieri. Una buona giornata da Simone Spezia. Bentornati a Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci. Il 349-238-6666. Tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque i dati sull'occupazione diffusi questa mattina dall'Istat. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dati quelli relativi al mese di dicembre. Dalla doppia lettura diciamo subito che il bilancio è positivo, si è rapportati al dicembre 2014. In un anno occupati in crescita di oltre 100.000 unità con il tasso di disoccupazione in flessione di 0,9 punti. Meno bene l'andamento del mercato del lavoro se valutiamo invece l'aspetto congiunturale, ovvero dicembre 2015 su novembre dello stesso anno. Qui l'Istat ci indica mese su mese un calo dell'occupazione, meno 21.000 unità ed un tasso di disoccupazione in lieve crescita, 11,4% dall'11,3% precedente. Un valore molto importante poi, Simone. Qui l'andamento positivo sta continuando, è quello relativo alla disoccupazione giovanile, 15-24 anni, che cala ancora a dicembre attestandosi al 37,9%, con una diminuzione di 0,1 punti su novembre e di 3,3 punti percentuali su dicembre 2014, è il valore più basso degli ultimi 3 anni. Buone notizie anche per la fascia over 50, che è quella che contribuisce maggiormente all'aumento dell'occupazione su base annua. Soddisfatto il ministro del lavoro Poletti, che dice si conferma la tendenza di stabilizzazione e di miglioramento qualitativo del lavoro dipendente nel nostro paese. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Nella seconda parte della trasmissione, alle 13:15, ci collegheremo con qualcuno per analizzare un po' meglio questi dati, al di là appunto dei freddi dati dell'Istat, capire quali sono quelli veramente rilevanti e se veramente questa riforma del mercato del lavoro ha funzionato e quanto ha funzionato. Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti, però, dove la notte delle votazioni in Iowa per le primarie, prima tappa della lunghissima corsa per la nomination alla presidenza, alla candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, non ha consegnato un chiaro vincitore tra i democratici, tanto che si è dovuto ricorrere al lancio della monetina addirittura e adesso al riconteggio, mentre tra i repubblicani sembra sgonfiarsi almeno parzialmente Trump e Marco Rubio risulta in netta ascesa. Il servizio. Vittoria sul filo di lana per l'ex segretario di Stato Hillary Clinton ai caucus in Iowa, in vantaggio di pochi punti percentuali sul suo rivale Bernie Sanders. Un testa a testa così serrato, si parla del 49,9% di Hillary Clinton contro il 49,5% di Sanders, che ha costretto alcune circoscrizioni addirittura al lancio della monetina, come previsto dalle regole. Ma secondo il Guardian, Sanders, dubbioso sul risultato, chiede ora al partito un conteggio voto per voto. In serata, poco prima della vittoria, la Clinton aveva detto: dobbiamo essere uniti contro una visione repubblicana che ci divide. Non permetterò loro di distruggere quanto fatto fino ad ora. Io sono qui stasera per ringraziare voi dell'Iowa e dirvi che farò quello che ho fatto tutta la mia vita, combattere per voi e per l'America in cui credo. Ha invece subito annunciato il suo ritiro l'ex governatore del Maryland Martin O'Malley, terzo candidato in lizza per la nomination democratica, che ha ottenuto meno dell'1%. Nessuna incertezza infine tra i repubblicani, dove ha vinto nettamente Ted Cruz con il 28%. Cruz ha battuto il miliardario Donald Trump, favorito della vigilia, che ha ottenuto il 24%. A sorpresa è arrivato terzo col 23% il giovane senatore moderato Marco Rubio. E ora riflettori puntati sul New Hampshire, lo stato dove il 9 febbraio si terranno le prossime primarie. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di tutto questo torneremo a parlare alle 13:45 in America 24 con il nostro Mario Platero, che ci racconterà tutto proprio da là, dall'Iowa. Parliamo di terrorismo adesso. Secondo quanto diffuso dalla TV BFM, 6 persone, 5 uomini e una donna sono state fermate nella regione di Lione, siamo nel centro della Francia, con i biglietti dei pullman che avrebbero dovuto portarle in Bulgaria, poi in Turchia e da lì in Siria. 2 di loro stavano cercando di procurarsi armi, perché se fosse sfumato il sogno di andare a combattere la guerra santa in Siria, avevano già pronto il piano di un attacco armato contro dei club per scambisti. 6 dovevano partire la prossima settimana, almeno stando alle date dei biglietti. A Roma intanto è in corso proprio un summit sul terrorismo col segretario di Stato americano. Sentiamo. Fa tappa a Roma la lotta all'ISIS. Da questa mattina la capitale ospita la 3ª riunione della coalizione internazionale anti-Daesh in formato small group. Al vertice in corso alla Farnesina siedono i rappresentanti dei 23 paesi più impegnati nel contrasto all'autoproclamato Stato Islamico. Il mondo si aspetta sicurezza da noi e noi distruggeremo l'ISIS, ha detto nel suo intervento il segretario di Stato americano Kerry, ricordando che l'obiettivo del vertice di Roma è quello di discutere sul modo in cui aumentare gli sforzi per vincere questa guerra. Lo Stato Islamico ha perso terreno nel 40% dell'Iraq e nel 20% della Siria, ma allo stesso tempo minaccia la Libia e l'Africa subsahariana, ha sottolineato invece il ministro degli esteri italiano Gentiloni, secondo il quale è necessario da parte della coalizione internazionale un maggior coordinamento negli sforzi militari, economici e diplomatici. Kerry e Gentiloni hanno anche sollecitato il varo del nuovo governo di unità nazionale in Libia, paese destinato a diventare il terzo fronte nella lotta al califfato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come sapete e come vi abbiamo raccontato, è proprio il tema dei migranti, collegato evidentemente anche a quello del terrorismo, che sta generando problemi e scontri tra l'Europa e l'Italia. Temi sui quali oggi è tornato il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Dice: se vogliamo risolvere il problema dell'immigrazione serve una strategia di lungo periodo, non polemicucce da 4 soldi. Tutto questo durante il viaggio proprio in Africa e in Ghana. Sentiamo le parole di Renzi. Se l'Europa vuole finalmente vincere la crisi di ideali e di valori che ha davanti a sé, è il momento di avere una strategia di lungo periodo e non soltanto qualche dichiarazione o qualche polemicuccia da 4 soldi. Noi come Italia dobbiamo ricordarci chi siamo, ovunque siamo considerati come un punto di riferimento importante. Per anni siamo stati assolutamente decisivi nella vita di alcuni di questi paesi, possiamo esserlo ancora, Eni qui ha firmato accordi fino al 2036, il nostro mondo dell'agroalimentare può trovare in queste terre un partner naturale per espandersi, pensate a tutto il valore dell'export per i nostri prodotti e pensate contemporaneamente a cosa può essere un'operazione sull'agroalimentare anche per dare e creare posti di lavoro qua, nelle terre nelle quali ci troviamo. Dunque occorre avere però un disegno strategico. La cronaca adesso: la polizia di Stato ha arrestato un prete di 40 anni che avrebbe commesso abusi sessuali su 3 minori mentre era parroco a Palermo. Le indagini avrebbero fatto emergere che 2 fratelli di 13 e di 15 anni erano state vittime di violenza sessuale da parte del parroco della chiesa di Palermo che frequentavano. Gli episodi sarebbero cominciati in occasione di un pellegrinaggio e sarebbero poi continuati in periodi successivi anche nell'abitazione dei 2 ragazzi. Parliamo adesso invece di violenza sulle donne e dei 3 casi di queste ore. I loro nomi arrivano da parti diverse del paese e ora, uno accanto all'altro, raccontano di nuovo di un'Italia dove le donne vengono picchiate e uccise da chi hanno più vicino. Carla, Luana, Marinella. In poche ore a Pozzuoli, nel Catanese e a Brescia, 3 uomini bruciano, strangolano e quasi decapitano le loro compagne di vita. Nel napoletano lotta per la vita la 38enne arsa dall'uomo che sarebbe diventato di lì a poco il padre della bimba che aveva in grembo, le cui condizioni per fortuna dopo il cesario non preoccupano. La storia di Carla e Paolo volgeva verso la fine e questo lui non lo accettava. È stata invece la gelosia cieca a spingere Vincenzo, a Mister Bianco, ai piedi dell'Etna, a stringere fino alla fine le mani sul collo di Luana davanti ad uno dei suoi 4 figli. Lei lo aveva già denunciato per lesioni nel 2012 per poi ritirare le accuse contro quell'uomo che nel passato aveva già ucciso, sempre per gelosia, un vicino che mostrava interesse per la sua fidanzata dell'epoca. A Brescia invece, prima di andare a schiantarsi sull'autostrada, ha chiamato un parente, Paolo Piraccini, che ha ucciso a coltellate la moglie 56enne. «Ho ucciso Marinella, adesso vado ad ammazzarmi», ha raccontato, prima di imboccare contro mano la A4 da Ospitaletto verso Venezia e prima di schiantarsi contro un tir e morire. Un incidente in auto, come quello di Paolo, in Campania, che ha permesso poi di ricostruire quello che lui prima aveva fatto a Pozzuoli contro la sua compagna incinta. E così ora i volti e i nomi di Carla, Luana e Marinella si sovrappongono quasi in quest'ennesima fotografia di un'Italia dove gli uomini uccidono le loro donne. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questi temi torneremo a parlare più avanti, lo faremo con una criminologa e psicologa, in particolare del caso di Mister Bianco, perché non è la prima volta, non la prima, nella quale una donna maltrattata denuncia e poi decide di ritirare la denuncia. In particolare ci soffermeremo su questo caso. Veniamo al vertice sullo smog di oggi al Ministero dell'Ambiente. Anna Marino, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Siamo di fronte a un'emergenza climatica, nessuno ha la bacchetta magica. Così il Ministro dell'Ambiente, queste sono le sue parole, di Gianluca Galletti, inquadra la situazione che ha portato una nuova emergenza smog che si è ripresentata nelle principali città italiane, da Treviso a Napoli, in assenza di pioggia dopo la precedente di Natale, e annuncia misure e investimenti dopo il tavolo sulla qualità dell'aria al Ministero dell'Ambiente con Regioni, Comuni, ANCI, Conferenza delle Regioni e Protezione Civile, un tavolo che ha deciso di ripetere ogni mese, mese e mezzo. Il 2014 e il 2015, dice Galletti, sono stati gli anni più caldi da quando registriamo le temperature, non solo in Italia ma in tutto il pianeta. Nonostante questo, la situazione delle polveri sottili è migliorata, e Galletti rilancia una grande alleanza con le regioni e i comuni, perché sono questi a decidere. Un'alleanza che serve a spendere meglio e più velocemente i fondi a disposizione. Il governo mette sul piatto 85 milioni per la mobilità, spiega Galletti, 35 sulla sostenibilità e 50 milioni per le colonnine elettriche. Da oggi è in vigore il collegato ambientale, poi ricorda, una svolta green per il paese, un passo in avanti culturale, lo ha ricordato in un tweet. Contro lo smog è ora di spendere risorse e decidere misure durature, non di emergenza, come in questi giorni abbiamo visto in ordine sparso. E per ora è tutto. Grazie Anna Marino per questo aggiornamento. Finalmente ci siamo, dopo le piazze arcobaleno, dopo il Family Day, finalmente il DDL Cirinnà, quello sulle unioni civili, arriva in Parlamento. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, allora la parola passa all'Aula del Senato, che oggi pomeriggio voterà le pregiudiziali di costituzionalità sulle unioni civili, poi anche il ritorno in commissione auspicato dai centristi e dai cattolici Dem, questi due voti di oggi. A decidere invece sui voti segreti, quando si entrerà nel vivo degli emendamenti, sarà il Presidente del Senato Pietro Grasso, ma si parla di decine e decine di concessioni per i rimandi ai temi sensibili nel testo. Il capogruppo PD Luigi Zanda parla anche del Family Day, ha trovato sgradevoli slogan del tipo "ce ne ricorderemo", in forte contrasto con lo spirito del Circo Massimo. C'è poi lo scambio Lega PD sugli emendamenti. Il capogruppo Gianmarco Centinaio del Carroccio ritirerà il blocco del 90% dei quasi 5.000 modifiche presentate appunto dalla Lega, mentre il PD rinuncerà al super canguro. Giovedì l'ufficio di Presidenza PD, che deciderà di limitare la libertà di voto del gruppo a pochissimi emendamenti, tra cui le adozioni, e su questo interviene il leader del nuovo centrodestra Angelino Alfano, che ancora una volta offre un patto al PD di eliminare dal testo la step child adoption e togliere qualsiasi analogia con il matrimonio. Alfano incontrerà i senatori centristi questa sera, ma intanto il premier Matteo Renzi ha intenzione di andare avanti con l'accordo dei 5 Stelle. A te Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Manca una settimana per restare sulla politica alle primarie del centro-sinistra a Milano, e il centro-destra non ha ancora scelto un candidato. A questo è dedicata l'analisi del nostro Daniele Biacchessi. Il centro-destra non sembra interessato al meccanismo delle primarie per scegliere la nuova classe dirigente politica e amministrativa. Non le vogliono Berlusconi, Salvini e Toti. Ed è un vero peccato, perché attraverso questo sistema tipicamente anglosassone non solo è possibile delineare i candidati più apprezzati, ma anche garantire il ricambio generazionale auspicato da tutti. Il Partito Democratico, fin dalle sue origini nel 2008, ha inserito le primarie nel proprio statuto e le ha applicate a livello locale per scegliere sindaci e governatori anche sul piano nazionale. Dalle primarie del PD infatti è uscita una nuova classe dirigente che oggi governa il paese. A Milano il centrodestra al momento non si schiera e attende il nome del candidato sindaco del centrosinistra. Se sarà Sala, metterà in campo un cavallo di bandiera. Una vittoria di Balzani o Maiorino, nei sondaggi comunque improbabile, costringerà Berlusconi e Salvini a schierare un pezzo da 90, ma che ora proprio non si intravede. A Roma le cose diventano ancora più complicate per il centrodestra dopo l'annuncio della gravidanza di Giorgia Meloni, che pareva l'unica che poteva mettere insieme le tante anime della coalizione. I candidati già designati dal centrodestra a Torino, Bologna e Napoli non spostano granché il problema. La situazione avvantaggia nettamente il centrosinistra per le prossime amministrative e costringerà poi gli avversari ad una seria riflessione sui meccanismi di scelta e sulla costruzione di un progetto post-berlusconiano. Così l'analisi del nostro Daniele Biacchessi del martedì. Siamo al Festival di Sanremo con le nostre. Ci siamo, eccolo qua. Con la nostra Marta Cagnola. Prima ho detto a Paolo Corleone in regia: quando senti la parola Sanremo, fai partire la musica. E mi ha preso da ridere, alla lettera. Ha ragione, tu dici, io dico Sanremo, tu fai partire la musica. Ha ragione. Vabbè. Buongiorno a tutti. Questo è Maître Gym, rapper franco-congolese, primo in classifica. Confermato come super ospite a Sanremo. Confermata anche, dopo tante indiscrezioni, Nicole Kidman. Arriverà anche Nicole Kidman e notizia di oggi, Roberto Bolle. Qualcuno oggi mi ha chiesto come farà a ballare sul palco dell'Ariston. Non lo so, io non saprei ballare neanche in Piazza Duomo. Quindi comunque ci sarà anche il Roberto Bolle. Quindi gli ospiti del festival per ora sono loro, Elton John, Ellie Goulding e poi Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Pue, Elisa e Renato Zero. Però purtroppo... Ecco, bollettino medico di Gabriel Garco. Ecco, dobbiamo dire che ieri, lo sappiamo, purtroppo l'esplosione nella villa che ospitava Gabriel Garco, anche con una vittima. Gabriel Garco, prognosi di 10 giorni, e quindi questo escluderebbe l'arrivo di Gabriel Garco almeno nei primi giorni del festival, e sicuramente non sarà alle prove oggi e domani. I medici però vorranno valutare ancora le sue condizioni fisiche e psicologiche dopo lo shock, quindi si attende ancora l'ultima conferma dell'arrivo o meno sul palco dell'Ariston di Gabriel Garco. Lo sapremo nel giro di poche ore o di pochi giorni. Vedremo cosa succederà dunque e vedremo cosa ci riserverà questo Festival di Sanremo. Grazie intanto alla nostra Marta Cagnola, che come sempre lo seguirà. Il traffico, ci ritroviamo tra un attimo per commentare i dati sull'occupazione. A tra poco. Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: i dati Istat sul lavoro in primo piano, meno occupati in dicembre, ma il saldo in un anno è positivo di 100.000 unità, scende la disoccupazione giovanile. È arrivata pochi istanti fa, in corso alla conferenza stampa di presentazione, della bozza europea per mantenere la Gran Bretagna nell'Unione. Il primo commento del premier britannico Cameron è questo: è positivo, ci sono cambiamenti sostanziali. Più avanti nel corso della trasmissione vedremo di aggiornarvi su questa bozza e su che cosa contiene. La cronaca: in poche ore 3 casi di violenza sulle donne. In provincia di Catania un uomo già condannato per omicidio uccide l'ex compagna. Nel bresciano il marito ha tolto la vita alla moglie e poi si è schiantato sulla A4. Le primarie americane: in Iowa si va al conteggio voto per voto dopo il sostanziale pareggio tra Clinton e Sanders. Tra i repubblicani vince Cruz e sorprende Rubio. E a proposito di Europa, Renzi è tornato sullo scontro con Bruxelles: serve un piano di lungo periodo, basta alle polemicucce e alle lezioncine. Buongiorno ad Emanuele Massagli, presidente di ADAPT. Benvenuto Massagli. Grazie, buongiorno. ADAPT è un'associazione fondata da Marco Biagi che si occupa proprio di studi sul mercato del lavoro, e con Massagli noi vogliamo commentare proprio i dati diffusi oggi. I dati fanno segnare per il mese di dicembre rispetto a novembre un calo di 21.000 occupati e un saldo positivo per quanto riguarda l'anno, cioè dicembre 2015 su dicembre 2014, un saldo positivo di 109.000 occupati. In lieve calo la disoccupazione giovanile. Allora, Massagli, forse dal combinato disposto, per così dire, del Jobs Act e di un po' di ripresa economica, per quanto fragile, ci si poteva attendere qualcosa di più? Sì, credo anch'io che potesse attendere qualcosina in più, e credo sinceramente che anche il governo si aspettasse qualche dato migliore su dicembre, anche perché dicembre è un periodo solitamente soggetto a assunzioni stagionali, e quindi si immaginava potesse il dato essere migliore rispetto a quello di novembre, che era un dato positivo. Probabilmente chi doveva assumere lo spieghiamo, mi scusi Massagli, perché sì. È periodo A di turismo, B sì. Di grandi acquisti ai negozi, e quindi ci sono semplicemente più persone che vengono chiamate a fare i commessi piuttosto che a lavorare nei ristoranti e negli alberghi, no? Il turismo sono soprattutto assunzioni stagionali, per cui di più mesi, quindi periodi magari la stagione invernale negli alberghi, nelle stazioni sciistiche, eccetera, eccetera. Per il commercio si tratta di assunzioni anche molto brevi, magari solo per il weekend, ma che ovviamente hanno dei riflessi positivi sulle statistiche. Quindi dicembre è assolutamente un mese che ha dei dati positivi. In questo caso dicembre ha seguito il mese di dati di novembre, che sono stati molto buoni, e il motivo è probabilmente da ricercarsi nel fatto che terminavano il 31 dicembre gli esoneri contributivi previsti dalla legge di stabilità 2015. Per cui le imprese che volevano usufruire di quel generoso esonero e sapevano di dover assumere nel corso dell'anno 2016 hanno anticipato a questo punto, più a novembre che a dicembre, le assunzioni di lavoratori. E forse il governo appunto si attendeva magari che invece chi arrivava all'ultimo arrivasse proprio in dicembre per dare una spinta ulteriore all'occupazione. Quindi complessivamente dei dati piuttosto deludenti, mi sembra di capire dalla sua valutazione, Massagli. Sono dei dati, se guardiamo al mese di dicembre, sicuramente deludenti. Se poi guardiamo al tutto, l'Istat adesso ci fornisce anche la fotografia dell'anno, per cui se guardiamo al periodo dicembre 2014-dicembre 2015, sono dei dati invece lievemente positivi, come ha detto lei prima, sono 109.000 occupati in più e 254.000 disoccupati in meno. La ringrazio, grazie ad Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, per essere stato con noi. E saluto Alessandra Cattoi, che è ex assessore al patrimonio del Comune di Roma, nella giunta guidata da Ignazio Marino. Cattoi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Per parlare con lei di questa nuova affittopoli scatenata dalle informazioni diffuse dal prefetto, dalla guida del Comune di Roma in questo momento, al commissario straordinario Francesco Paolo Tronca, si tratta di 574 dati che riguardano affitti con dei prezzi francamente incredibili. Un alloggio a Borgo Pio a 10,29 euro al mese. Corso Vittorio, vicino a Piazza Navona in questo caso, a 24,4 euro al mese. Casa con affaccio sui Fori Imperiali a 23,3 euro al mese. In via del Colosseo 25,6 euro al mese. È una cosa veramente incredibile, ma qualcosa voi avevate già trovato, Cattoi, no? Ma guardate, io ho letto questi dati con tanta attenzione evidentemente e non ho trovato nessuna novità, perché questi dati sono online purtroppo, dal marzo, aprile 2015, sono sul sito del Comune di Roma e sono consultabili da chiunque. Quello che ha fatto il commissario Tronca è giustissimo, ha rimesso ancora una volta in evidenza un fenomeno che è evidentemente scandaloso, a cui bisogna mettere mano, bisogna fare l'aumento di questi canoni. Come aveva previsto una delibera fatta dall'allora amministrazione guidata da Ignazio Marino, e quindi mi pare che il commissario Tronca stia in una linea di continuità con quello che si era iniziato con la vostra amministrazione. Cattoi, quando l'avete scoperte queste cose voi? Noi abbiamo iniziato a fare un censimento, puntuale di tutte le case affittate appena ci siamo insediati, e nel luglio del 2014 abbiamo votato una delibera dove si dice esattamente quello che continua a dire Tronca: guardate che ci sono degli affitti completamente a canone in mercato che vanno adeguati. Dopodiché il problema è: ma perché non è stato fatto nulla? Quello che si viene da chiedere. Più o meno, guarda, mi ha anticipato. Esatto, e questo purtroppo fa parte della frustrazione di chi amministra, che si trova a confrontarsi con la dura realtà. Però vi voglio fare un esempio per capire qual è la realtà. Immagini lei, ha un l'avvocato del comune in via del Colosseo. Il comune le scrive e le dice: guardi, lei ha pagato fino adesso 100 euro al mese, dal mese prossimo paga 2.000 euro al mese. Lei cosa fa? Mi fa scrivere dall'avvocato, glielo dico io, mi fa scrivere dall'avvocato e mi fa causa, e io non glielo posso aumentare l'affitto, e questa è una grandissima frustrazione ed è uno scandalo che poi le cose vadano a finire così. Mi dica questo Cattoi. Allora, voi sul ragionamento che ci ha fatto siamo perfettamente d'accordo. Voi avete, non so, probabilmente non potete diffondere per ragioni di privacy i nomi di chi abita in questi appartamenti, ma che realtà ne emerge? Cioè, come mai uno finisce in una casa di proprietà del comune in Piazza Navona pagando 25 euro al mese? Perché è questo che ci stiamo chiedendo un po' tutti, insomma, a prescindere dallo scandalo del prezzo che viene pagato. Cioè, come ci finisce una persona in questo appartamento? È una questione di privilegi o ci sono disfunzioni amministrative che li portano là dentro? Allora, personalmente non glielo dire, perché io non ne ho mai dati di questi appartamenti, come non ha mai dato nessuno ed è verificabile l'amministrazione Marino. Quello che si può capire andando a ricercare, appunto, perché vediamo che sono cose di anni e anni fa, che da una parte c'era una disponibilità dei politici fino a un certo punto, fino a, diciamo, agli inizi, a metà degli anni, al 2010 direi, di dare in affitto degli appartamenti in piena disponibilità del sindaco. Cioè, il sindaco firmava: do questo appartamento a tal dei tali perché credo che ne ha diritto, punto, e nessuno, ed era insindacabile. Quindi ci sono anche le firme di Veltroni e di Rutelli sull'assegnazione di questi appartamenti, per dirla proprio brutale? Certamente degli assessori delle giunte di quell'epoca, e soprattutto, se mi permetto di dirlo, ma non vorrei sembrare di parte, dell'amministrazione Alemanno, perché queste le ho viste con i miei occhi. E dopodiché c'è invece un fenomeno che è biasimabile, e cioè arriva una famiglia che è in emergenza abitativa, ha tre bambini che vivono in automobile per strada, si rivolgono al comune, il comune non ha una casa popolare immediatamente libera e li alloggia nella prima casa che nel passato, oggi non accade più evidentemente, può essere capitato che quella casa fosse a Piazza Navona, fosse in via del Colosseo. Certo, doveva essere una situazione temporanea evidentemente, per tamponare un'emergenza. Sì. Quelle situazioni temporanee sono diventate definitive, perché quell'inquilino che si è trovato nella casa del Colosseo non c'è modo di tirarlo fuori, perché lui è sempre nullatenente e quindi non lo si può mettere per strada. O appare nullatenente, perché poi è ancora peggio, evidentemente. Diventa molto molto complicato. Io capisco che il fenomeno è scandaloso, però guardando nelle sue aspetti burocratici, perché purtroppo molto spesso è colpa della burocrazia, ci si trova incastrati in un groviglio da cui non si esce. E fa bene il commissario Tronca a dire: devo andare a vedere la filiera dei dirigenti, perché questi dirigenti... che ha firmato tutto questo. Una precisazione all'ascoltatore che dice: il comune, se ha ragione, che paura, non ha nessuna paura, è semplicemente che i tempi si allungano. A questo si riferiva Cattoi quando diceva: se mando una lettera ad un inquilino dicendogli devi pagare 2.000 euro al mese, non posso cacciarlo via subito, molto semplicemente, perché l'inquilino fa causa, e fino a che il giudice non dà un giudizio su quella mia richiesta io non posso aumentargli l'affitto. Poi magari dopo 5 o 10 anni, quando la causa si finisce, quell'inquilino dovrà pagarmi gli arretrati, ma intanto sono passati 10 anni. Certo, intanto magari arriva una sospensiva del tribunale che dice: no, nel frattempo questo paga i suoi 10-25 euro al mese, e poi eventualmente, appunto, la procedura va in tribunale come deve andare, solo a quel punto l'inquilino deve pagare. A me spiace dirlo, perché è vero che ci sono delle lentezze della burocrazia ed anche degli abusi che sono stati fatti, ed è evidente. D'altra parte ci vorrebbe un pochino di correttezza anche da chi queste case, cioè avere una casa in via del Colosseo e pagarla a canone di mercato è comunque un privilegio, perché non ce ne sono case in via del Colosseo libere. Direi proprio di no. La ringrazio, grazie ad Alessandra Cattoi, ex assessore al patrimonio del Comune di Roma, per averci dato qualche chiarimento e quelli che poteva dare, evidentemente. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa, tra l'altro una giornata negativa di nuovo e particolarmente per una serie di titoli bancari a partire dal Monte dei Paschi. E poi ci occuperemo di questi tre casi di violenza sulle donne avvenuti nelle ultime ore, di cui tra l'altro nei quali tra l'altro ci sono state due vittime, due persone che sono morte, due donne che sono morte, che sono state ammazzate in un caso dall'ex compagno, in un altro dal marito, e poi quella donna che è gravissima, la storia ve l'abbiamo raccontata anche nei giornali radio, dopo che il marito le ha dato fuoco mentre era incinta, la bambina è nata. Ne parleremo tra poco, ne parleremo con una criminologa e psicologa, in particolare in relazione a quello che è avvenuto a Catania, ma ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, dati Istat sul lavoro, meno occupati in dicembre, 21.000 in meno, ma il saldo in un anno è positivo di oltre 100.000 unità, scende la disoccupazione giovanile. È arrivata la bozza europea per mantenere la Gran Bretagna nell'Unione, primo commento del premier britannico Cameron è positivo, ci sono cambiamenti sostanziali. Oggi pomeriggio il DDL sulle unioni civili approda in Parlamento. Notizia di poco fa, la Lega Nord ha fatto sapere di aver lasciato circa 500 emendamenti al DDL rispetto agli oltre 5.000 presentati nei giorni scorsi. In poche ore tre casi di violenza sulle donne in provincia di Catania, un uomo già condannato per omicidio ha ucciso l'ex compagna. Le primarie americane in Iowa, si va al conteggio voto per voto dopo il sostanziale pareggio tra Clinton e Sanders, tra i repubblicani vince Cruz e sorprende Rubio. E una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda il Salone del Libro, l'Associazione Italiana Editori e il presidente dell'AIA ha fatto sapere che si è dimesso dal consiglio di amministrazione della fondazione per il libro, dice, alla luce dei profondi cambiamenti, e preso atto del ruolo progressivamente marginale proprio dell'Associazione Editori. La borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Gli aggiornamenti adesso, perché stanno arrivando proprio in questi minuti, sulla nuova bozza di accordo per tenere la Gran Bretagna nell'Unione Europea. Li ha presentati Donald Tusk, c'è già una prima reazione positiva di Cameron. Sentiamo dunque la nostra Alessandra Schepisi per un punto, un aggiornamento e soprattutto per i contenuti. Alessandra. Sì, meno welfare e più potere ai parlamenti nazionali sono due dei punti per ridisegnare l'appartenenza della Gran Bretagna all'Europa e per tentare di scongiurare la prospettiva Brexit, cioè l'uscita di Londra dall'Unione. La bozza d'intesa sulla quale i 28 paesi dovranno poi votare nel vertice di febbraio è stata ufficializzata con un tweet dal Presidente del Consiglio europeo. Stare o non stare insieme, questo è il dilemma, ha detto Donald Tusk ricorrendo all'Amleto di Shakespeare. Tra i punti, come si diceva, il potere di veto a disposizione dei parlamenti europei per bloccare norme europee non gradite, una sorta di cartellino rosso che potrebbe scattare quando un certo numero di parlamenti nazionali sono contrari ad una misura varata dalla Commissione. E poi altro capitolo molto importante, il freno di emergenza alla concessione dei benefici previdenziali ai lavoratori comunitari, una sorta di salvaguardia che permette alla Gran Bretagna ma anche ad altri paesi europei di frenare l'accesso al welfare nel caso in cui si dimostri che il sistema è sotto stress, una misura che però secondo Tusk dovrà essere sottoposta al vaglio degli altri 27 paesi europei. Ancora la possibilità del Regno Unito di restare fuori dai piani di maggiore integrazione europea, mentre arriva il no alla proposta di Cameron di concedere un diritto di veto sulle decisioni dell'Eurozona anche se anche ai paesi che non vi appartengono. Un'intesa che comunque, come hai detto anche tu, è stata salutata favorevolmente da Cameron, porta a un cambio sostanziale nelle relazioni tra Londra e Bruxelles, ha detto il Premier, anche se è necessario definire alcuni dettagli in vista del vertice di febbraio. E con questo è tutto. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Saluto Anna Boldri, che è criminologa, psicologa, docente di psicologia sociale alla Seconda Università degli Studi di Napoli, autrice di vari libri che riguardano anche la violenza sulle donne. L'ultimo, edito da Franco Angeli, è Dai maltrattamenti all'omicidio, la valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio. Buongiorno Boldri, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, per parlare con lei di questi tre casi che abbiamo visto in queste ultime ore, l'ultimo è di questa mattina a Brescia, un uomo che da quel che abbiamo appreso era anche depresso ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha provato ad uccidersi andando sull'A4 contro mano e schiantandosi contro un camion. E poi il caso di Catania, a Mister Bianco, che è un paese della provincia di Catania, dove un uomo ha ucciso l'ex compagna, mosso evidentemente dalla gelosia. In particolare in questo caso, Boldri, ci sembra che si sia sottolineato un fatto importante. Nel 2012 la donna aveva già subito delle violenze dall'ex convivente, ha denunciato e poi dopo 3 giorni ha ritirato la denuncia. È un caso molto frequente questo. Sì, allora qui ci sono, purtroppo questi casi si assomigliano molto. Io ho più di 20 anni che mi occupo di violenza contro le donne, lavorando anche con i centri antiviolenza, e non sono fatti eccezionali. Adesso noi stiamo dando attenzione perché sono successi non nell'arco di poco tempo, ma purtroppo in Italia ancora, malgrado le nuove leggi, ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Questo caso qui appunto fa particolarmente scalpore, cioè indigna ancora di più, perché si dice: ma come uno che aveva già una condanna, era già stato in carcere per omicidio, vabbè, a parte si potrebbe parlare dell'efficacia della detenzione, no? In termini di riduzione, evidentemente, del rischio. E forse anche della durata della detenzione, perché è stato in carcere 11 anni dopo aver ucciso un vicino per gelosia, tra l'altro. Comunque, sì, prego. Non conosciamo gli atti, ovviamente, probabilmente avrà usufruito del regime alternativo. Comunque, detto questo, ecco, spesso la domanda che anche mi viene fatta, o che vedo anche con le donne appunto che seguo direttamente, è chi denuncia, le vittime che denuncia, che trovano poi il coraggio di denunciare e poi ritirano, no? Perché la domanda di chi osserva, chi non è dentro la materia, giustamente diciamo: perché è ritirato, no? Poi alla fine vedi intanto cosa succede, quello è ancora pericoloso. Allora c'è da fare un po' di chiarezza, soprattutto volendo aiutare le donne vittime di violenza. Allora io ho conosciuto, conosciamo anche tanti fatti di cronaca purtroppo, dove donne che avevano denunciato un sacco di volte e non avevano ritirato la denuncia, che sono state uccise comunque. Quindi il problema non è ritirare o non ritirare la denuncia, fare o non fare la denuncia. Sicuramente a tutte le donne o ragazze che subiscono qualunque forma di violenza, stalking, maltrattamento, l'atto giuridico, che sia la richiesta di ammonimento in sede amministrativa o la vera e propria querela o denuncia, dipende dal reato per cui si poi procede, è in qualche modo una tutela necessaria, perché le istituzioni ci devono essere e devono tutelare. E devo dire che anche con questo osservatorio appunto che ho di oltre 20 anni, le cose sono molto cambiate in termini non tanto solo di leggi che ci sono state, anche se forse da sole, non forse, sicuramente evidentemente da sole non stanno bastando, perché non basta avere una legge, non è solo una questione, giustamente lei diceva, sì. Però poi devono essere applicate, e anche in termini di certezza, sì, della pena, si sentono tanti questi termini, però lavorando anche con le vittime e cercando di veramente volere risolvere una volta per tutto, comunque affrontare seriamente questo problema, non è la soluzione a tampone che aiuta, può aiutare quella donna, no? Allora in questo caso probabilmente ci sono state delle sottovalutazioni del rischio, perché uno che è stato dentro per un reato analogo, non sì, tanto, dico solo il discorso dell'omicidio, ma dico un omicidio collegato alla stessa tipologia di movente, ok? Sì. E forse che non ha fatto un percorso di ravvedimento, potremmo dire, valutabile. È uno che va tenuto sotto controllo. È uno pericoloso che va tenuto sotto controllo. Esatto. La stessa donna, probabilmente, nel ritirare la denuncia, io questo lo dico proprio perché l'ho toccato con mano. Sì, ecco, questo mi interessava molto. Che cosa scatta? Abbiamo veramente 30 secondi, Boldri, sì, e mi scusi per lo scarso tempo. Cosa scatta nella testa di una donna che decide di ritirare la denuncia? La paura e il terrore, perché così pensano che se loro fanno quello che loro in qualche modo, i maltrattanti, le obbligano con le minacce, col ricatto a fare, cioè a ritirare la denuncia, lui perlomeno si calma. Io ho sentito tante donne che hanno detto, non solo perché purtroppo pensano che con la denuncia quello si arrabbi di più, perché lui gli dice: io sono già nei guai perché ho un precedente penale, adesso tu con questa denuncia mi metti nei guai. La donna spera, diciamo, ma non perché è cieca o è stupida, ma perché non ha più a cosa a cui attaccarsi, perché c'è evidentemente un vuoto ancora sociale, istituzionale, ma soprattutto culturale, dove di fronte a questi reati, ne stiamo parlando adesso, ma poi chiudiamo la porta perché dice: quella è stata ammazzata al suo ex, la cosa non mi riguarda. Il problema della violenza contro le donne è un problema di tutta la collettività. O decidiamo che è così, o purtroppo ne continueremo a parlare. A parlare. La ringrazio. A parlare di vittime, soprattutto agli orfani. Io penso a questi bambini che rimangono, senza madre, e in questo caso ovviamente anche padre, senza, ovviamente, sì, esatto, preso presumibilmente in carcere. Grazie Anna Boldri, criminologa e psicologa docente di psicologia sociale alla Seconda Università degli Studi di Napoli, per essere stata con noi. Il traffico, Mario Platero dall'Iowa, e poi ci risentiamo alla fine per i saluti.